Buonasera, ben trovati. Buonasera. Buonasera, ben trovati. Come va? Come ben avete notato? Io c'ho un care pochino... pecorelle, cari parrocchiani, benvenuti, ben trovati. Eccovi qua. Come avrete notato, io ho un abbassamento un po' di voce e bevo un po' claudicante. Quindi facciamo... lo spettacolo stasera lo scordiamo. Facciamo lo stesso, in qualche maniera arriveremo alla fine. Non con la stessa leggiadria che ti si confà e con i miei atti meravigliosi. Vabbè. Lui è anche vestito da infermiere, c'è un motivo. Tu da becchino, e quindi... No. Boh, allora, non ci hanno chiuso il teatro dopo aver fatto Mai morti i fascisti, non ci ha chiuso il teatro i leghisti dopo aver fatto Nave fantasma, ma vuoi vedere che toccando il tema della Chiesa... Non lo chiude Rutelli e la Margherita? Hai visto mai? O Mastella che arriva Rutello, Ciccio Bello arriva, oppure come si chiama? Cirino Pomicino. No. Noi prenderemo in giro un po' sia Papa Pacelli, Pio XII, il famoso Papa che durante il periodo nazista ebbe un pontificato abbastanza tribulato e... Non ho capito. Che prenderemo in giro sia Papa Pacelli, famoso Papa... Quello l'ho capito, quello l'ho capito. Periodo nazista... Non ho capito. A terza volta. Padre Pio. Padre Pio. Oh. Padre Pio. Si può dire Padre Pio in Italia. Beh, uno dei più amati, quindi. Speriamo sì. Del resto lui diceva che la letizia è l'anima del francescanesimo e lui che dall'alto ci osserva, ci protegge, ci sorveglia, sarebbe felicissimo che noi scherziamo, giochiamo un po' con lui. Tanto che diceva? Tanto che lui stesso asseriva. Bisogna guardarsi della tristezza perché non vi è cosa che maggiormente impedisca di camminare verso la perfezione. Cos'è sta roba? È pugliese. Perché non c'è, non è, lui parlava beneventano, tutta la... Io il pugliese so. Tu avevi detto che sapevi tutti i dialetti. Tutti i dialetti della mia bocca non è mai uscito. E poi si sa che il dialetto nella commedia dell'arte che noi faremo, a cui ci riferiremo, sì, a cui facciamo riferimento questa sera, il dialetto diventava una scusa, poi veniva cambiato, modificato, grammelottizzato, che è un neologismo che ho buttato qua. Io grammelizzo, tu grammelizzo. E Balanzone parte come pedante nel 1400 e poi dopo diventa Emiliano. Dura lex, sed lex, è dura leggere, figurati da seduti, per dire. Oppure Arlecchino che finisce per diventare veneziano, inizialmente era uno Zanni Bergamasco. In questa cosa che io adesso citerò, lo Zanni Bergamasco nel 400 già faceva una parodia della Divina Commedia. Certo. Nell'ora che il Ventru e comanda i pezzi, capito? Che vaghi al bus de tre a fa imbassata, è stronzo. Capito, stronzi? E vuoi insidere perché erano volgari? Diciamolo, erano volgari. Preparatevi perché c'è la famosa scena di Brighella che fa il ditalino a Colombina, quello che caga in scena. Noi andremo oltre, noi cercheremo di superare i maestri. Sarà difficile, il compito arduo, ma che Padre Pio era uno molto spiritoso. Sì, vero? Hanno fatto anche un libro sulle sue battute, perché faceva sempre battute e barzellette. Leggiamone un paio, così allietiamo il nostro... Allora, una devota addormentava Padre Pio. Che devo dire a Rosa? Padre Pio, stanco delle sue esistenze, rispose: dille che diventi garofano. È finita? Non fa ridere. Pensavo a Campes. Scusa. Non fa ridere. Non le sai leggere. Arriva c'è chi sa raccontare le barzellette e chi non le sa raccontare. Tenetevi che adesso vi sbilicate. Questa qui, vai. Durante un matrimonio, lo sposo non si decideva di dire sì. Padre Pio disse: ti decidi, o la sposo io. No, fanno cagare veramente. Caro Padre Pio, già che sei lì, voglio dire, La Chiesa cosa non ha fatto sul... Cosa non ha fatto i comici dell'arte, gli attori, cosa non ha detto, cosa non ha fatto... Per secoli ci hanno perseguitato, ci hanno. Terra Sacra cos'era? No, ma devi... La memoria, guarda. La memoria, è da ieri che non abbiamo la suggeritrice, quindi stiamo... Comunque. Ma ve ne accorgerete. Cosa non ha detto la Chiesa sul teatro e sulla commedia dell'arte? Tre citazioni velocissime. Le attrici spesso sono meretrici... E cosa ancora più grave, spesso sono straordinariamente belle. Questo era un peccato, capito, secondo loro. E tutto ciò trascina gli spettatori nella libidine. E ancora, quando mai anticamente si sopportò che una donna uscisse sul palco e sotto la gonna tenesse nascosto un uomo? Queste indegnità si sono viste a Firenze. Hai notato lo stile recitativo straileriano, terza persona? È il mio maestro. Pensavo fosse Zeffirelli, pensavo. O Ronconi. No, Ronconi. Dei due l'uno. No, Ronconi sarebbe. Quando mai anticamente. Aspetta, che ho appena mangiato. Ultima città, noi stiamo aspettando. Maestro. Maestro. Noi scherziamo, ma loro non scherzavano affatto. Ultima citazione del Borromeo Milano, che poi l'hanno fatto santo. Mai non riescono gli occhi nostri al demonio più adatti al suo fine che nei teatri. Tutto ciò che il Signore ci ha dato per servire Lui viene ivi nel teatro, rivoltato dal demonio, in strumento per offendere. Questa frase qui del Borromeo è la sintesi del concetto, nel senso che da una parte c'è il teatro, la commedia dell'arte, il profano, e dall'altra il Borromeo, la chiesa, il sacro. C'è questo scontro titanico, epico, fra il sacro e il profano, il sacro e il profano, il sacro e il profano. Ho la pelle d'oro, guarda, giuro, ho la pelle d'oro. Sì. Ma comunque. Anche un po'. No, vabbè, vai avanti, vai avanti. No, che sapevo? Per secoli. Per secoli ci hanno perseguitato, ci hanno seppellito la sconsacrata. Appena Fiorello, Crozza, Lidizzetto ci hanno un attimo di subito. Qualche pretazzo che anche si imbornisce, due maroni. Allora, se anche per una volta noi ci vendichiamo. Una volta soltanto ci vendichiamo. Non saremo i primi, non saremo gli ultimi. Per citare un esempio illustre, Dante cosa disse della Chiesa nel Purgatorio? Puttana, e lo dice due volte, bizzoccola gli dice, capito? Ieri sono andato al Brico, ho comprato una bellissima cornice 70x50 a giorno, 14 euro, fai il tuo bel figurino, l'ho messo all'ingresso di casa mia, così sono a posto. Per che cosa? Per la scomunica, se mi arriva track è pronto. No, a me non mi fregano. Per la scomunica no. Io la voglio in argento, bella, ritirata. No. Facciamo una cosa, però chiediamo. Sì, perché... Voi vi hanno detto alla cassa che fate la parte delle pecorelle? Mi hanno detto praticamente, voi siete morti. Siete nell'aldilà. Qualcuno è già più di qua che di là. Voi siete le pecorelle nell'aldilà. Comunque c'è l'infermiera, c'è il becchino, per cui qualcuno avesse bisogno. Chiediamo loro se chiediamo ci vendichiamo o no. Ci dobbiamo vendicare o no? Sì. Allora, se l'entusiasmo è questo... Io vado a casa, che ho anche registrato la puntata di Dottor House, che non ho visto, per favore. Un po' di energia. Proviamo a richiedere, dai. Ci vendichiamo o no? Sì! Oh, benissimo! Quindi? Io santo! Tu beato! Risate! Visto costume bellissimo e capello tipo Vaticano bellissimo con lucine belle, ripetete con me: che belle lucine, che belle lucine. Lei non ha ripetuto, mi sono accorto, e io in realtà volevo entrare qui in teatro su portantina tutta d'oro, che madreperla, con 14 servitori che mi reggevano sulle spalle. Mi hanno detto: Renato, ti sei montato la testa, pensi di essere al piccolo. Ripetete con me: pensi di essere al piccolo. No, purtroppo no. Dai un po' di luce, ma quante belle pecorelle, ma quante belle pecorelle, ma che belle quante, soprattutto quello importante, ma quante belle pecorelle, tutte belle, tutte belle, non tutte belle, qualcuna fa schifo. Ripetete con me: qualcuna fa schifo. Vedo delle poltroncine vuote, brutte le poltroncine. Ah, visto le poltroncine nuove? Sono belle? Allora ripetete con me: che belle poltroncine nuove. Esco un attimo dai panni di Pio XII, entro in quelle del socio del teatro e cooperativa. Ripetete con me: che bel incasso. Ultimo avvertimentum, successo già due o tre volte, sono già senza voce, che qualcuno di voi pecorelle entrano in teatro con Cinguinguin, gnamete, gnamete, gnamete, poi l'attacca sotto il braccio. Ripetete con me, stramaledetus. Bravi. Che bello l'aldilà. Ma che bello. Ma che bello l'aldilà. Che bello. Bellissimo. Ma bellissimo l'aldilà. Vado a vedere anche l'altra parte dell'aldilà, che lì c'è uno spazio vastissimo. C'è niente. Faccio finta. Che bello. Vado a vedere l'altra parte dell'aldilà, sperando arrivi Pius. Che bello l'aldilà. Esco un attimo ma poi torno. Ha fatto un applauso, cacchio. Che bello. Ido et cum bradicus e padre bei pavita cum bradicus e padre bei. Ido et cum bradicus e padre bei pavita cataputicus e padre bei. Caro padre bei, potete. Caro padre bei. Grazie che hai tanto vicino a noi. Italiano. Grazie che hai tanto vicino a noi. Te ricopri me surde, ti ricopriamo di soldi, ma la verga fai. Te ricopri me surde, grazie. No, grazie di chi è basta? Tutto quello che l'uomo ha bisogno, padre pei, ci vai. Padre poi, per esempio a tuo occhio vedo che tu hai la digestione difficile, ti ingarognisci spesso, ti prendi te freddi padre poi, tu per esempio che mi sembra che hai l'attività motoria e intellettuale di un barameccio, ti prendi la mocca padre poi, la metto mocca e sei meglio. Giovane coppia, qua seduta, so che avete l'attività motoria e sessuale di una coppia di vongole, si vede. Se vuoi. Vi bevete limoncelli, padre, vai. Tu che c'hai problemi di sudorazione. Non negate, lascia se andai. Allora, c'è deodorante, padre, vai. Capa? Ma... tornate a casa la sera, triste moce, dopo una giornata, ma dopo tutto tu tradevo, dopo una giornata la well, una giornata la well, di lavoro, vessati, moci, tristi, l'orizzonte nascosto, aprite la porta di cao, e non trovate la luce, non trovate la luce, bravo signore. Se vuoi tradurre per te, è meglio. Non trovate la Leo, c'è rusta la Leo, c'è giù perduta la Leo. Ma no! Se vi siete comprati la statua di padre più di 2,5 metri, con l'occhio illuminato e preventiva mai, lo avete puntato sull'interruttore, ha trovato la Leo, ci ha trovato. Lo so, è duro la vuoi. Torna a casa la UL. La prima cosa che fai qual è? Tazza gazzetta. È un gloves. Nel caso, se fossi indasato un water, sta costura accesso il padre Pio. Grazie padre Pio. Che c'è sempre un giorno. Paro. Sarebbe là di là con tutti questi multa paesi a casa lo marei, ma no, chi che scusi sappia. Ma no. Ma che bello. Cucculafo. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Bipio. Pio. Pio. Pio. Pecorelle sembrava che momento, ma no, noi ci siamo incontrati di là, di qua, di là ci vediamo qua, ma no, però adesso ti guardo, ma no, così da Chito di prima intenzione, non tu, non mi ricordavo che sulla tele eri così, non mi ricordavo avessi quel naso a dente di ruspa, l'occhio a pallina da golf, quell'aria da triglia ieratica del tuo tempo. Ma neanche io mi ricordo che tu in terra eri incinto e avevi il naso a gnocco fritto. Peperone. A peperone. Ma come mai? Perché qui, nell'aldilà, mutasi aspectus nostros, aspectus anche vox nostra, ma non solo noi, anche pecorelle. Per esempio, questo ragazzo qui, nella vita magari era bellissimo, e qui nell'aldilà latrina est. Latrina. Ah, va cacare! Era bellissimo, ma qui purtroppo da vivo non dovrei scoprire anche questo, ma no, siamo beneficio del culo, però io un po' lo devo dire, caro Pecorello, lo devo dire anche a voi, in quanto santo io pensavo di andarci direttamente rindu paradise. Ma no, perché tante anime ascendum in celum e questo sistemazio provvisorio, pazienza. Devi portare pazienza, semplicium. Ma tu l'hai imparato in latina, sembri lotito quando parli in latino. Ego parlare sette, conoscere sette lingue, lingue. Come in latino siamo a posto. Sì. Noi. Sì. Ce lo possiamo dire io e te, cosa più Pecorelle. Cosa più stai sentendo? Cosa più? Ce lo possiamo dire orecchia a orecchia, nasa a nasa. Orecchia a orecchia, nasa a nasa. E fatelo anche voi. Orecchia a orecchia, nasa a nasa. Ce lo possiamo dire. Che cosa non ha combinato la chiesa in terra a me? Io ho detto tutto senza dire niente. Ma summissa voce, summissa voce, verum est, ma summissa voce, summissa, speak slow, quiet, speak quiet, quiet. Che spagna? Quando parli l'inglese sembri Condoleezza Rice. Cosa fai? Parla piano. Quante cose Pecorelle. Summissa voce. Ho messo la voce. Quante cose ha combinato la chiesa intera, certi vescovi, certi papo. Per citare un esempio fra mille che ce ne sono. L'arcivescovo di Bzaus, quello in Francia, come si chiama? Besançon! Bravo, l'arcivescovo di Binasco, quello! Era un puttaniere! Sì, giorno e notte badessava, ma non solo quello! Sì! Ma non solo quello! Paradisogramma! Paradiso? Gramma! Paradisogramma! Paradiso. Antenigramma di paradiso! Sì. Causa eccesso, santificazioni e beatificazioni stop, volute Giovanni Paolo II stop. Ingresso paradiso momentaneamente intasato stop. Momentaneamente disponibile un posto solo paradiso, stop. L'onnipotente in tutta la sua grandezza e onniscienza, stop. Si paleserà più presto. Cordiali saluti, lui. E lui chi, scusa? Dio, no? Ma no! Cioè Dio! Dio! Dio. Un posto solo. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Scusa, non ho capito. Il concetto, non ho capito proprio. A tua sorella vuole fare, guarda! Faccio un programma, non faccio! Ma vedi a questo, da culto, bevato. Madonna. Pius, un posto solo, che facile! Ma che facile! Madonna, mi sta. Ma che facile! Sto movimento intestinale mi sta venendo! Che facile! Madonna! No! No! Cosa? No! No! Ci vai tu! Basta. No, neanche per io no, no, ci no, vai no, tu, no. Pius! Ci no, vai io tu. Non mi posso presentare in paradiso, figli contadini con il saio, ma per favore! No, ci vai tu, ma non fosse altro che per la tua bella figura slanciata, alta, questa bella aria un po' algebrica che hai, eh? Quando c'è l'aria un po' algebrica? Ieratica, ma anche per il tuo, guarda, guarda che bel cane pastore tutto broccolato l'odore che c'hai in mano, vedi? Il pastorale è broccato, poi, broccato. E poi il colore della tua pelle, così bianco, come naceo, sei riceo. Grigio cenere, sembri una falda di Savoia, ma stai bene? Ma sì, sto benissimo, ma poi l'onore divino. Non solo per quello, ma anche perché tu hai. Tu sei figlio, nipote, pronipote di grandissimi figli di una misericordiosa anima del purgatorio. Bravo. Ma anche perché durante il tuo papato. Tantissimi ebrei hanno trovato rifugio nelle tue chiese, nei tuoi conventi, nelle tue parrocchie. Chi dice 750 della mia? 150.000 di no, no, no, no, no, no, neanche per Yoko, se c'è un posto in paradiso non ci vai tu, Pius, perché tu, fin da 4 anni già in gallenga, già vi nota con demonium, e a 9 anni e flagellavi schienam tuam. Modestamente ho certe cicatrici come sa Cicci sulla E poi anche perché i tuoi miracoli, il profumo di violette che spandi ancora oggi in tutto il mondo. E che comparivi contemporaneamente in due posti diversi nello stesso momento, il miracolo della bilocazione. Bilocali di qua con quello che costano le case oggi, lascia aperta. E poi il miracolo più bello. Cosa? Oltre a quelli che ti hanno riconosciuto, il miracolo più bello, quello dei peperoni fritti, che mi hanno detto che la racconti così bene. No. Dai, racconta pecore le mani. No. Ma il miracolo dei peperoni. No, il più. No, il più. Vai più, dai. Ci tengo proprio. Ma il pecorello lo volete sentire il miracolo dei peperoni? No. Non lo vuoi raccontare? Vabbè, se lo voglio sentire. Se no lo raccontavo io. Disgraziati. Prendo posizione. Così godo anch'io di miracolo dei peperoni. Bellissimo. Aspetta che faccio un po' memoria. Sì. Allora. Eccoci qua. Avrò avuto 9 anni. Ero a letto malato, care pecorelle, da 40 giorni. Febbre anche a 48 gradi! Termometri che partivano come petardi Mi frecavo un termometro al giorno, Mercurio in ogni dove come un blob malefico sui muri, sui vestiti, sulle barrette, sui mobili. Quando a un certo punto sento un odore, un olezzo, un profumo. Che cos'è? Che cos'è? Era il profumo di violette, vero? No, di peperoni fritti che mia madre aveva fatto una scofana al 20 per sao. A questo punto, mi sono levato. Del mio sudario, coperto di mercurio naturalmente, seguo questa luce celeste, ma anche un po' gialla, anche un po' rossa. La fiamma del fornello a gas. E mi sono mangiato tutta la scofana di 20 persone che porti mia madre. A questo punto, pecorelle, non ci crederete, ho guarito. Ma che bellissimo, ma bellissimo, miracoli di peperoni. Ma come racconti bene. Poi, al di là dei tuoi miracoli, le tue stimate che esimio professor Giorgio Festa ha attestato un come vere, e poi i milioni di fedeli che vengono ogni anno a San Giovanni Rotondo, e tu per loro hai una parola di conforto, di carità, di guarigione. Io una guarigione non la nega nessuno. Se tu togli, se si toglie la gente povera e umile, la religione, cosa gli rimane? In foggia! uomini semplici credono in te, questo è più grande dei miracoli tuoi. E per questo, se c'è rimasto un solo posto in paradiso, in nome di giustizia che Ecclesia ha professato in cielo e terra da secola secolorum, quell'unico posto in paradiso, oh Pio! Me lo becco io. La soglia del paradiso. Quale? Che gli dai indicazioni? Ti spezza le diti e ne do giù. Ha detto che è di là. Ma no, ti parcheggio le ginocchia nelle narici, parcheggia a te. Quale? Anche pecorale non è giusto, scusa, con tutti i miracoli che ho compiuto. Ma io vanto fra i miei devoti altissime personalità dell'arte, della scienza, della letteratura, dell'enigmistica addirittura. Cantanti famosi. Oh, qua. Pupai, Peppi di Capri, a Sandrope, l'alunno si... Vieni che paglia, mi viene. A Sandrope, l'alunno si svegli con te, tu balli twist, tu t'ha fasciato come una sottina, la megavi, Pupai. Ma chi se ne frega di Peppino di Capri, dai. E Memoremici? Dove lo buttiamo via Memoremici? Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, eppure in quel posto incredibile. Io ti ho detto ti amo. Non so provare. Tu mi hai detto solo provare. Ti amo. E perché? Cosa? Tony Sant'Agata. Cosa? Vorrei coprire la tua bocca. Ti pesci. Ci devo andare io. Valeria Marini. Ha detto che è stata un'esperienza sconvolgente quando è entrata nella mia cella e ha visto la cappella. Ignorante, votiva. Vabbè, ci vado io. Ci vado io. Radio Maria Censura, pedofilia, USA. In America è uscito un magnifico DVD, Our Fathers, Padri Nostri. Spiega con sobrietà l'enorme scandalo dei preti pedofili che ha scosso la Chiesa Cattolica degli Stati Uniti e altri 38 paesi. Cifre da capogiro, 11.000 denunce, 4.000 preti condannati, più di 100.000 bambini molestati e la diocesi di Boston che ha dichiarato fallimento a causa degli 85 milioni di dollari che ha dovuto pagare come risarcimento. Padre James Martin definisce lo scandalo della pedofilia la più grave crisi che la Chiesa Cattolica abbia dovuto affrontare dopo la riforma. Costo del DVD $26 e censura. Altro film in uscita in America. Quanti film fanno questi fanculo di Yankee? Deliver Us from Evil, regista Amy Berg. Una lunga intervista con un ex prete, Oliver O'Grady, che con dovizia di particolari racconta di aver violentato centinaia di bambini e bambine, in alcuni casi anche di 8 o 9 anni, per oltre 20 anni, senza che nessuno dei suoi superiori lo fermasse. Il mio cardinale sapeva tutto, mi chiedeva se mi eccitava a vedere i bambini maschi in mutande o nudi, e ogni volta che qualche genitore minacciava uno scandalo mi cambiava di parrocchia. Certo, i panni sporchi si lavano. Censura. Radio Maria Censura. Date una carezza ai vostri bambini. Cagliari, arrestato a Villa Massargia Don Marco Dessì con le accuse di riciclaggio, truffa e violenza sessuale continuata su orfanelli di età fra i 6 e i 12 anni. Il religioso raccoglieva da varie parti del mondo cospicui fondi di beneficenza che rimpinguavano i suoi conti privati invece di finire alla comunità per bambini abbandonati da lui fondata in Nicaragua. Corriere della Sera, novembre 2006. Napoli, al parroco Don Tommaso Antonio T, già condannato nel 95 per abusi sessuali, invece della sospensione a divinis, hanno dato una parrocchia piena di bambini nella zona Flegrea, dove il parroco ha violentato per settimane una bambina di 10 anni in sagrestia. Censura un cazzo. È tutto vero. Atto primo. Allora facciamo così, Pius. Lancio della monetina, io testa, tu croce, opla. Testa, ho vinto io. Tu ti siedi e ascolti in silenzio. Io parlo, poi faremo il contrario e alla fine le pecorelle con il loro applauso decideranno a chi dei due spetta l'ultimo posto rimasto libero in paradiso. Titolo, Operazione Candelabri, luoghi Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Puglia e Parigi. protagonisti. Da una parte l'arcivescovo Pasquale Guagliardi e i suoi preti, tutt'altro che casti, dall'altro Padre Pio e i suoi fidi scagnozzi, fra questi il più lesto, tale Emanuele Brunatto, detto anche un francese, uomo molto, molto scafato, che fra imprese di ogni genere e tipo in precedenza era stato invischiato a Napoli. Brunatto, senza lavoro, si cimenta addirittura nella difficilissima arte del comico, ma così male che la ballerina amante con cui si esibisce è costretta a impegnare a Monte di Pietà persino il costume. È un francese abituato ben altra vita, a Napoli, senza il becco di un quattrino, completamente sull'astrico, non sa più a quale santo appellarsi, quando davanti ad uno dei tanti miracoli delle Madonnine che piangono nei vicoli e allo stato di trans collettivo, facilissimo da buggerare, che ne consegue, sente giungere da lontano quella voce di quel frate che aveva sentito e incontrato a San Giovanni Rotondo, la cui fama, ma che ad olio si espande dal sud dell'Italia e al resto del mondo, che gli sussurra: vieni avanti, Brunatto, vieni San Giovanni Rotondo, Brunatto, vieni San Giovanni Rotondo, Brunatto. Detto, fatto. Si precipita, spaccia per sorella la ballerina amante, e nella feroce guerra che l'arcivescovato di Manfredonia è scatenato contro il frate, mette a disposizione tutta la sua arguzia, tutta la sua esperienza, tutta la sua arte. Monsignor Gagliardi ha denunciato il Vaticano che Padre Pio è un losco millantatore, il suo mercimonio paganeggiante, e di aver persino visto con i suoi occhi le bottiglie di acido e di tintura con cui, a suo dire, le stimmate il frate da solo si procura. Il Vaticano ci crede e impone a Padre Pio alcuni divieti, tipo officiare, confessare devoti. Siamo negli anni venti, Padre Pio e un francese a quei divieti non ci stanno. In codice si chiamano candelabri. In realtà trattasi di 1000 copie dell'Les Antichrist dans l'Église de Christ, gli anticristo dentro la Chiesa di Cristo, un libretto che Brunatto ha scritto su certi episodi avvenuti nell'arcivescovato di Manfredonia. Parla ad esempio del comodino pieno di preservativi di Monsignor Gagliardi, che si badessa una suora, che fruga sotto le donne di qualche devota non proprio pia. Parla di un arciprete pedrasta che si fa due ragazzi sulla provinciale e un cieco in sacrificio. Parla di Don Paladino che si fa una vedova, una sposata, una zitella, e poi tutte e tre insieme in un'orgia, non ricordo se chiesa o cappella, la ricostruzione dei fatti quadra. Manca Don Luigi Cucci, che per aver denunciato tutto questo al Vaticano viene sospesa a divinis. Bravo, se il Vaticano non ritira i provvedimenti restrittivi contro Padre Pio, a Parigi, da dove in quel momento un francese ordisce nuovi intrighi, 1000 copie di quel pamphlet a dir poco incandescente verranno dati in pasto alle autorità della Chiesa, pubblica opinione, alla gente. Come per un caso di spionaggio internazionale che si rispetti, prima di arrivare a Parigi, copie del libro e dei documenti relativi erano stati secretati a Lipsia, a Monaco di Baviera e presso la villa di un'americana convertitasi a Padre Pio, ricca ereditiera. Alle estenuanti trattative segue l'accordo. Noi diamo a te, Vaticano, il materiale scottante di Manfredonia, e tu in cambio revochi le restrizioni. Sembra fatta, pensa Brunatto, ma la beffa finale lo annichilisce. Appena entrato in possesso di ciò che gli preme, invece di revocarle quelle restrizioni, il Vaticano le inasprisce. È finita? No, perché è un francese, è un uomo di mondo e sa che dei preti a volte non c'è da fidarsi. Parte dei cliché tipografici dei documenti originali li aveva nascosti un po' qua, un po' là, sparsi. Nuove trattative, nuovi ricatti, il Vaticano alla fine cede finalmente e Padre Pio può prendere ad officiare, confessare e ricevere e spedire corrispondenze. Il materiale dell'operazione Candelabri tornerà utile per future restrizioni quando Giovanni XXIII, il Papa Buono, come che ti definirà? Un ignorante circondato da cialtroni. Bravo! Ma io tutto quello che ho fatto l'ho sempre fatto nell'interesse delle anime. Non solo interesse delle anime, anche interessi economici. alcune lettere confermerebbero che seguivi, stabilivi fin nei minimi particolari percentuali, royalty, cessioni. 250 Antonietta, 50 D'Angela, 100 Marietta Margherita, qui parli di azioni, sempre di tuo pugno. Mio carissimo in Cristo, non frapporre alcuna difficoltà a cedere l'altro brevetto per negoziarlo con gli Stati Uniti, un 3% non è disprezzabile. A un ricco industriale veneto convertito pure lui, come Cristo nel Vangelo consiglierai, vendi tutto quello che hai, ma Cristo nel Vangelo aggiunge e dallo ai poveri. Tu invece, pagnolo Singh, mi raccomando, cambia in dollari. Epilogo tinto di giallo, un giallo un po' vivace ma anche strano, tipo giallo Vaticano. Molti anni dopo, una sera, Brunato, un francese, telefona alla moglie del bagno Singh: vogliono farmi la pelle. La mattina dopo lo ritrovano rilasso fra piatti, posate, scodelle, ictus, infarto, trombosi. Per un francese niente, autopsia e la valigia con i documenti dell'operazione dei candelabri, pariceria. Francesco Forgione di Petralcina, Ma credi che sia un caso che l'amaro strega lo producano dalle tue parti in una regione zeppa di credenze mistico-religiose che sforna santi su santi? Francesco Forgione, tu che fin da piccirillo ti hanno inculcato l'idea che il tuo capaccione è un capaccione d'aureola, tu lo sai che anche le preghiere si trasformano in oro a San Giovanni Rotondo e che le truffe che coinvolgono gli amministratori locali del tuo ospedale, i posteggiatori, sono all'ordine del giorno? Tu lo sai quanto è costata la mega cattedrale di Renzo Piano e che persino l'incenso puzza di zolfo nella Las Vegas del Gargano? Tu, Francesco Forgione, lo sai, sì che lo sai, che fra le migliaia di gadget tuoi più ambiti, costosi, sono pezzette di stoffa intrise del sangue del sacro, stimate tue, ma che in realtà trattasi di volgare sangue di coniglio, pollastro di bue. Tu, Francesco Forgione, ma ti sei dimenticato cosa intendesse San Francesco? Un santo per te importante, il poverello d'Assisi, non un santo qualsiasi, San Francesco, nomen est omen, che il santo che persino nell'atto supremo delle sacre stimmate hai emulato, porca miseria, santi numi, cavolo, ti sei dimenticato tu, alter Christus, che cosa intendesse San Francesco per sterco del diavolo? Perché il tuo problema era molto semplice. Le tue piaghe erano davvero sacre, erano davvero miracolose, eppure te sei raschiate con non si sa quale tipo di arnese. Professor amico Bignardi dell'Università di Roma, ordinario di patologia medica, un luminare, non un frescone qualsiasi, quando viene a fare visita a San Giovanni Rotondo, referta che c'hai i nervi un po' scossi, sei un po' esaltato, che le stimmate tue potrebbero essere di uno stato morboso e dei prodotti chimici, e il banale risultato, tintura dei iodi, insomma, che lascia il giusto alone di rosso, raschia quel tanto la pelle, mantiene viva la piaga, costa pure poco. Chiama l'amico. I mortacci, su, hai finito? Con un piccolo quesito. Al di là delle tue incredibili, straordinari, indubitabili doti di medium, indovino, guaritore, me domando, ma sarà un caso che l'insetto de porta a porta alterna spesso una puntata su Vanamarchi e una su Padre Pio, una su Vanamarchi e una su Padre Pio, una su Vanamarchi ed una su Padre Pio, con questa domanda che tutti c'è di lani e ciassilla e con un grande inchino concludo pure. Io, tuo santo, Tang, Mengele, Pavelic, Eichmann, Pripke, ma quanti e quanti criminali nazisti hanno lasciato l'Italia grazie al Vaticano durante il tuo papato? Forse hai ragione tu, forse io non sono degno di accattarmi l'ultimo posto libero l'Hindu Paradise. Però una domanda te la voglio fare. Ti ricordi, hai visto una foto di Comer San Giovanni Rotondo negli anni 20 o 30? Cosa c'è da ricordarsi? Quattro sterpi, due cani randagi, nemmeno una strada. Bravo Papo, però adesso è tutto molto diverso. Negli ultimi due anni 90 concezioni per alberghi con mostre 5 stelle, più 500 camere, un progetto per un eliporto, un progetto per un palazzetto dello sport, metropolitana lunga 1 chilometro, munita di nastro pellegrino trasportatore, che arriva dritta dritta dentro Renzo, progettata Renzo Piano. Renzo Piano il tempio! 70.000 metri cubi di roccia scavata, 9.200 metri quadri, 1.360 blocchi in pietra, 27.000 metri cubi di cemento armato, campanile non verticale, orizzontale, arco in pietra di 50 metri più alto del mondo, croce in pietra di 40 metri la più alta del mondo, 7.000 posti a sedere, 30.000 posti in piedi nel sagrato, 9 milioni di pellegrini tutti gli anni accorrono a San Giovanni Rotondo. E secondo te, un fest qualsiasi avrebbe potuto progettare tutto questo? Quando è stato fatto santo, la piazza del Collato di San Pietro era gremita di inverosimili, di pellegrini urlanti, sembravano ultra, gridavano il mio nome. Salutate a Padre Pio. Chi lo sa può sapere. Chi non lo sa, minuzzerà. Chi lo sa, lo sa. Chi non lo sa, minuzza le rape. Tutta la vita. Signori della corte, care pecorelle, esimia giuria, vostro onore, il Pio X2 qui presente, con la storia dei candelabri, ha pensato di darmi una stoccata, ma ancora non lo sai, è un caracchiri. Ti conveniva stare seduto, zitto e buono, citebù, al tuo posto. Vado leggendo. Tu sei stato prima nunzio Vaticano in Germania, a Monaco e a Berlino, poi segretario di Stato Papa nel 39. Con te, durante il tuo papato, la Chiesa ha tenuto sempre a sostenere di voler essere al di sopra delle parti. In realtà è stato così. Sì. Dimenticavo di ricordarti quella regola ferrea sottintesa di cui abbiamo fatto cenno prima. Hic impudens mendacium recusatum est, qui la menzogna impudente è ricusata. Con te la Chiesa è stata al di sopra delle parti? No. Altrimenti non si spiegherebbero le esternazioni contro il regime bolscevico. Io so quanti e quali massacri sono stati fatti dai comunisti in Spagna, in Messico, in Russia, quanti preti ammazzati, quante chiese bruciate. In Germania, durante il periodo dei spartachisti, sono entrati nella sede della mia annunziatura, mi hanno puntato la pistola al petto. E meno male che c'era Suor Pasqualina che ti ha salvato la vita. Questa paura dei comunisti, che io peraltro condivido pienamente, non giustifica però l'entusiasmo con cui la tua chiesa ha salutato l'avvento di Hitler. L'arcivescovo di Monaco, Monsignor Faulhaber, dichiara piena fiducia nel regime e di appoggiarlo senza riserve. Il vicario generale a Berlino del Vaticano, abbiamo un Reich, un capo, ci è stato dato da Dio. L'arcivescovo di Münster von Galen benedice il Führer e prega a Dio di seguire ogni suo passo. Ma è stata la Chiesa tedesca a condizionare il Vaticano, viceversa, non ha importanza. Però la faccia dell'imparzialità. Qual è appena fatto Papa? Il primo capo di Stato a cui scrivi in tedesco, non in latino, secondo la regola severa e rigida del Vaticano che prevede? Non ricordo. Molto onorando signor Adolf Hitler, noi imploriamo per lei i migliori auguri e la benedizione del Dio Onnipotente. L'imputato Sapeva, vostro onore, signore Pecorelli, signore della giuria, esimo pubblico. L'imputato sapeva che in Croazia, conversioni forzate di interi villaggi di serbi ortodossi, pistola alla tempia, Bibbia alla mano, massacri a cui partecipano, ahimè, anche frati francescani, detentori di macabri record in fatto di sgozzamenti, massacri tali da far inorridire e protestare persino i nazisti. Ante Pavelic, Ustascia, era il capo, responsabile di questi massacri. Tu lo hai ricevuto in Vaticano? Sì. Da solo? Sì. Sì. Ma con tutto gli onori dovuti a un capo di Stato? Sì. Hai ricevuto anche Kvaternishtito, responsabile della pulizia etnica, da solo anche lui? Sì, con 100 Ustascia in divisa. Aloysius Stepinac, arcivescovo di Zagabria, saluta l'avvento di Pavelic, il macellaio, con un Deideum in tutte le chiese. Fra l'altro, Wojtyla l'ha appena fatto beato, non è che ci frega il posto e vai preso il posto nostro. Ma veniamo al problema cruciale. Quello ebraico. In Slovacchia, Monsignor Tiso non era solo un prelato, primo ministro, poi presidente di un parlamento che prevede su 68 deputati 16 preti. Non era una repubblica, era una parrocchia praticamente. Il Führer diceva: è meraviglioso vedere come questo piccolo prete cattolico ci manda gli ebrei. E quando i due si incontrano, Monsignor Tiso fa sbellicare delle risa al Führer con barzellette sugli ebrei che finiscono nelle camere a gas. Io avevo ordinato a Monsignor Tardini di redigere un telegramma, una bozza di un telegramma per redarguire Monsignor Tiso. Bravo, ma l'imputato poi questo telegramma lo spedì? No. E intanto Monsignor Tiso, prima di finire appeso al cappio, si è reso responsabile della morte di decine e decine di migliaia di ebrei slovacchi in Polonia. In Polonia l'ambasciatore polacco in Vaticano, Casimir Papé, quando si reca per la decima volta nel tuo studio... Ho ascoltato e ancora ascoltato le vostre rimostranze per i poveri, sfortunati bambini della Polonia. Devo stare ad ascoltare la stessa storia ancora una volta? Santo Padre, io verrò ancora, ancora e ancora per implorarvi. Tanto ormai i bambini ebrei polacchi nel 44 erano già belli e che... Finito? No. Io ho ascoltato la storia dei candelabri. Zitto e buono. Qualcuno fra pubblico sa dirmi se l'obbligo per gli ebrei del distintivo giallo è un'idea di Hitler, dei nazisti o di qualcun altro? Era un provvedimento papale del XIII secolo. Cos'altro hanno impedito i papi agli ebrei? Vietavano alcuni mestieri, impedivano di andare a scuole con i cattolici, perché infettavano i ghetti, le espulsioni di massa. Civiltà Cattolica, prima e durante il tuo pontificato, ha pubblicato articoli in cui afferma che la razza ebraica è persecutrice, vessatrice, tiranna, te lo dico io, sì. Auspicava di rimettere in vigore le leggi speciali contro di loro, te lo dico io, sì. Che erano nemici del cristianesimo, te lo dico io, sì. Che prendono il sangue dei bambini cristiani per il pane pasquale, lo bevono come latte, che i bambini a cui prendono sangue devono essere uccisi nel modo più atroce o crocefissi ancora. Posso dirtelo io, sì. Adesso qualcuno nell'aula, perché io con la lingua non è che ho quella dimestichezza, mi sa dire cosa vuol dire esattamente Mitbrennender Sorge, con ardente, bruciante ansia e preoccupazione. Mitbrennender Sorge è un'enciclica di Pio XI, suo predecessore, in cui improvvisamente il Papa nel 37 si scaglia contro Hitler. Rilascia dichiarazioni del tipo: la svastica croce nazista della croce di Cristo. Rifiuta platealmente di incontrare il Führer nel suo viaggio a Roma e ordina di redigere un'altra enciclica che si opponesse fermamente all'antisemitismo. Poi l'impulsivo Pio XI muore, a questo punto subentri tu. Espressione più raffinata della diplomazia vaticana, fatta di silenzi, omissioni, sotterfugi e reticenze. E quell'enciclica tanto attesa scompare. Chi avrebbe potuto immaginare che le persecuzioni, le discriminazioni sarebbero state l'anticamera dello sterminio? Tutto quello che l'imputato ha detto è vero, ma è altrettanto vero che la Chiesa non ha mai protestato veramente contro quelle persecuzioni, forse perché non le riteneva poi così tanto gravi, così come è altrettanto vero e decisamente importante che per esempio l'attribuzione agli ebrei della colpevolezza dell'omicidio di Cristo è un'invenzione della Chiesa. L'antisemitismo faceva parte del suo DNA e ogni tentativo da parte della Chiesa di prendere le distanze dall'antisemitismo risultava forzato, imbarazzante, a volte persino ridicolo. Ancora a metà degli anni 30 Civiltà Cattolica insiste con l'omicidio rituale. Importanti teologi cristiani fanno riferimento al versetto 27-25 di Matteo: sanguis eius super nos et super filios nos, il suo sangue ricada su di noi e sui figli nostri, come se con quel grido autoaccusatorio degli ebrei di fronte a Pilato le camere a gas di Auschwitz altro non fossero che l'ineluttabile prova del compimento di una sofferenza prefigurata non dal Vecchio Testamento ma da Dio. Durante il rastrellamento del ghetto di Roma gli autocarri spillarono sotto le tue persiane, l'imputato mi aiuti, non mi vorrei sbagliare, ostinatamente chiuse. Voglio dire, come sostiene Settimia Spizzichino, unico sopravvissuto dei più di 1000 ebrei romani deportati ad Auschwitz, che eri complice dei nazisti, che eri antisemita, che non ti sei mai preso neanche un rischio. Ma, vostro onore, l'imputato se lo ricorda, può ripetere a memoria il discorso del Natale del 1942? Centinaia di persone, delle quali, centinaia di migliaia di persone, delle quali, senza avere una colpa propria, solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinati alla morte o al progressivo perimento. Centinaia di migliaia di persone le quali, senza avere una colpa propria, allora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinati alla morte o ad un progressivo deperimento. Scusate la mia sorpresa. Signori della Corte, signori giurati, vostro onore, io sono esterrefatto, mio malgrado, mi domando, non lo siete anche voi? Centinaia di migliaia di persone le quali senza avere una colpa propria, tra loro solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento, ma non mi sembra un po' poco? In quel periodo, mentre le urla di milioni di ebrei si levano alte, mentre vagoni piombati carichi di deportati attraversano l'Europa, mentre il fumo dei forni crematori di Auschwitz, Treblinka e Sobibor si levano al cielo, tu non hai mai usato pubblicamente, neanche una volta, neanche una santa volta soltanto, la parola che sarebbe stata così facile da pronunciare: ebreo. Se mi fossi espresso in modo pubblico ed esplicito, le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori. Vostro onore, l'imputato può ripetere? Se mi fossi espresso in modo pubblico ed esplicito, le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori. Peggiori di 6 milioni di morti. Che cos'è la battuta finale? Tu beato. Signorina, signori, ah, ah, mo, mo, mo, Lei è tre Pokémon qua, per favore. Ve ne dovete andare, è finito, basta, è stato un piacere. Ti ha disturbato un momento così importante che le pecorelle stavano per decidere chi dei due va in paradiso? Via. Allora, via, gentilmente, via, signorina, gentilmente, per favore. Le vedi altre pecorelle, le quante se ne impegno sedute, ti metti seduta qua, da lei va a mister, ne devi andare. Hai capito o no? Basta, finito. Voi sapete con chi state parlando? Ma certo, sai quante se ne vedono gli alloro come te, che se ne viene e ci incontri semantecum e ci scambia per magnacium o per clienti, o per clienti sì, altro che in paradiso, in inferno mandiamo, quindi via, via, via, via. Ma quali vialoni? E già, perché lei non se ne va nei vialoni, no, questa lavora a casa direttamente, oppure va nei locali dove si fa la tripatesa, dove la gente ti spoglia, fai la tripatesa, quello è basta, poi devi andare via. Quali pialoni, per chi vi avete preso? E poi non si è mai visto di qua, dalla cosa, che è così, è così. Ma chi sei tu? Io sono Dio. Ma no, c'ho un crollasso, una specie di come pacco mi è venuto. Non abbiamo sentito bene. Gentilmente, può ripetere? Può ripetere un secondo? Io sono Dio. Ma no! Un'attesatico mazzita. No, gentilmente, senta, allora lei, signorina e signore, quello che è, non può essere Dio. Innanzitutto perché non c'è il piano, quello che è obbligato a rosano tutti. E poi, per favore, visto che lei è Dio, faccio risata. Mi può mettere in conto così a coscia di pollo, gentilmente. Ma fammi un piacere. Bravo Spius! Cudetti, ma come? Bravo Spius! Che ti dico? Perché poi Deus non è Schneider! Come fai a dirlo? No, come facciamo a dirlo? Innanzitutto perché nelle nostre belle cattedrali Dio è sempre lì bello incrostato sui muri tutto bianco. Poi la barba, una bella barba, Dio è un barbone, hai capito o no? E poi Deus non si muove, poi tra via. A casa lì. E poi Deus non si muove in modo provocatorio, lascium. Dove sta scritto che le divinità non cantano, non ballano, non si dimenano? E perché mai la sessualità dovrebbe essere bandita? Innanzitutto che non sappiamo cos'è, quindi probabilmente risolto. Poi una che si presenta con i Village People così, per favore. Ma mi faccia il piacere, poi la sessualità è peccato. Peccato. Tu sei peccato. I riti, le celebrazioni in onore alle divinità dovrebbero essere vissuti con gioia. Fare l'amore non è peccato. L'eros è sacro. Nelle feste sacre di Dioniso si facevano delle orge in onore di Bacco. Ma tu! Ma bacia di moc! Moc per bacia! Vai retro! Saragat! Satana! Vai retro, Santana! Satana! Io sono contro le orge! Io sono contro le orge! Perché non mi invitano mai! Ma dove? Perché? Comunque, sei un po'! Io non se ne mangio tutto con la zita dietro, venti baci! Senti come ti chiami, Oba Martin, se ne devi andare, capito o no? Quella è la porta, quella è la finestra, una dei cesti della Vamiez. E poi Dio, sì. No, perché non può essere Dio? Perché siamo due cretini, siamo due deficienti, due stupidi, già siamo in insegna. Sì. Dio non è femmina! Bravo! Io non sono una femmina! Ma no, ma baciato un uomo, ma no! Né donna né uomo. In me la luce, il buio, il bene, il male, il maschile e il femminile si rincorrono, no? Si compendiano. Senti, appendia, senza l'appendia te devi andare, basta. E così è finita la storia, arrivederci. Attento! Io so essere forza che crea, ma che allo stesso tempo annienta e distrugge! Vabbè, ma proprio come ti incazzai? Quindi attento a te, maldestro ciccione! Ma del ciccione mi ha detto! Ciccione mi ha detto! Ah, anche maldestro! Grazie, anche maldestro! Guarda, Alberti, maldestro ciccione. No, una volta, adesso questa, io gli parcheggio le mani in faccia. Gli metto il gomito nella orecchia, non il cambio. Ma stai calmo, ma non prendetela, perché tutte le persone importanti, intelligenti di del mondo sanno che Deus non è negro e femmina, ma è blanco e uomo, lo sa Bush, lo sa Berlusconi, lo sa Prodi, lo sa Rutelli. No! Tutto può sopportare la mia pazienza celeste. Rutelli, no! Ha detto nulla, lui l'ha detto. Facciamo Mastella. Hai voluto tu acciuga secca. Ha detto acciuga. Ha detto acciuga. Anche se. Anche se. Ha detto acciuga secca. Quindi voi non credete che io sia Dio. Senti, senti Toblerone. Non ci crediamo. No. Basta, per favore. No. Su. No. Avete voluto. Ci ha stracassati. Visto? Non mi volevano credere. Arrivo con la luce divina, scendo alla Macciacchini. Aspetto 20 minuti il 4. Finisco quasi a Bresso. Domando, dov'è il teatro della cooperativa? Nessuno non lo sa. E chi lo sa mi dice, non ci vada, non ci vada. Mi sono qui. E questi due? Vabbè, ridestatevi! Vabbè, un altro modo non c'è, ma c'è uno spunto, scusi, eh! Pius! Pius! Che cosa? Sembra un po'. Che cosa? Sembra una pro. Sembra una sciocola! E Deus! E Deus! C'è stracazzato! Quel motarello! Quel motarello lì è Deus! Ti dico io che Deus! Ma tu avresti ragione! Il vostro modo di concepire la religione è punitivo, triste e vetusto. Carità di Dio, non ce lo perdiamo, Il piacere e l'amore, quale ruolo hanno? E se tu telefoni a come si chiama, Razzi, è lui che faccia e disfaccia, dico, non dico, fa tutto lui che non c'è. Tu chiami a Panzerotto. Panzerotto. Esso attraverso l'amore. È solo attraverso l'amore che ci si può ricongiungere a Dio. E non è un caso che persino a voi, miserabili mortali, è concesso il vero miracolo da vita, quello di poter la vita vostra volta ridonare. L'amore non è castigo, l'amore è ebbrezza. Amiamoci, va bene. Conoscenti parabrezza, va bene. Se dobbiamo fare solo quello, va bene. Basta un po' di... Andata, A posto. Fermila! Fermila, troppo facile. Veniamo al dunque. Sì. Voi avete saputo che in paradiso c'è rimasto un posto solo, vero? Sì. È venuto prima un punto bellissimo che ci ha dato la notizia che c'era un solo posto. Fessi! Non è vero niente. Niente di niente. E noi adesso facciamo che, per esempio, per aspirare a un posto in paradiso, un prelato deve aver vissuto certe esperienze, secondo, non altre. Secondo la nostra religione, sì. Secondo la nostra religione, sì. Allora, voi sapete, per esempio, cosa sia Corogoccio? Ce l'ho anche avuto la bambina Corogoccio. No, non sappiamo, no, scusa, Dio, non lo sappiamo, scusa. Corogoccio è una delle tante bidonville del terzo mondo a Nairobi. Padre Zanotelli la descrive così: confusione, fognatura a cielo aperto, miseria, malattia, degrado sociale, degrado morale, violenza inaudita, bande di ragazzini che controllano il territorio e attaccano chiunque, prostituzione minorile e AIDS. All'interno della baraccopoli Mukuru, la discarica della città, lì i poveri vanno a rovistare nella speranza di recuperare qualcosa da vendere. È come scendere nei gironi danteschi, catasti di rifiuti fumanti, puzza infernale, tanta gente, soprattutto bambini, che scavano a mani nude nello schifo, nella melma, e questi uccelli enormi, Bangu li chiamano, che si contendono il cibo con uomini e donne. Dov'è il regno di Dio? Il regno di Dio dove si mangia tutti i giorni. Come dargli torto, Florence? Florence a 11 anni si prostituisce, a 15 le dicono che ha l'AIDS, a 16 muore. Qualche giorno prima siamo sedute attorno al suo letto, un cero illumina appena il suo volto, un viso bellissimo ma pieno di pustole. Prega a lungo, Florence, spontaneamente. Florence, Florence, chi è? Chi è per te il volto di Dio? Silenzio alcuni minuti, poi un sorriso bellissimo. Sono io il volto di Dio. Ecco, è in posti come Corogoggio. È fra queste persone che il mistero si fa carne. Lo tocchi con mano, si rivela sui volti dei nuovi crocifissi. Al lume della candela il volto di Florence sembrava un Caravaggio. È vero, è vero. Dove più abbonda il peccato e la disperazione, più abbonda la grazia. In Africa ci sono 28 milioni di malati di AIDS. 28 milioni di malati di AIDS. La malattia divampa come il fuoco e il Vaticano che fa? Come si fa a proibire l'uso del preservativo? Mi forgi qui, butta male. No, malissimo. Malissimo. Per i missionari gli uomini di chiesa posti come Corogoggio dovrebbero essere la norma, non l'eccezione. Per portare parole di conforto, ma anche di lotta. Anche di lotta, sì. Se non poni problemi politici sei come Madre Teresa di Calcutta, un santo. Ma se osi occuparti di questioni politiche e economiche, cosa sei? Un comunista. Se dai da mangiare a un affamato, ti dicono che sei un santo. Ma se soltanto provi a chiedere perché quell'uomo è affamato, cosa sei? Un comunista. Vivere in posti come Corogoggio senza cercare di capire quella realtà è puro spiritualismo. Un missionario deve fare scandalo. Che cosa significa aiutare i poveri se poi non denunci che li opprimi? Dio è un comunista. Dio è di parte, sì. Dio non è neutrale, è profondamente schierato, come per Mosè a cui fu chiesto: che cosa fai qui? Ribellati, vai dal faraone. È come se oggi io dicessi a uno di voi: vai da Bush. È una parola, quello Bush è sempre lì che cerca Bin Laden, quando lo trova deve andare a mangiare il cagnolino e poi deve portare la democrazia in giro. Lo so che è difficile, ma Mosè ci va e cosa trova? Un comunista. Trova l'impero, che come impero, faraonico romano, come l'odierno impero del denaro, è l'opposto del sogno di Dio, del mio sogno. Dio è contro l'opulenza dei pochi che hanno tutto, è contro le spese militari. La religione a volte fa da stampelle agli imperi e attribuiscono a me, a Dio, che Dio benedice il faraone, Dio benedice Cesare, Dio benedice Bush, Dio benedice persino dittatori sanguinari come Mussolini, Franco, Hitler e i poveri. Ah, per i poveri, anche se soffrono tanto, poi c'è il paradiso. Gesù risveglia la memoria sovversiva del popolo ebraico, per questo viene crocifisso. Praticare la vostra fede, la fede cristiana, significa rispettare i suoi dettami, i suoi precetti. E visto che ci tenete così tanto, li vogliamo ricordare i suoi dettami, i suoi precetti? Li vogliamo ricordare i suoi dettami, i suoi precetti, sì o no? Sì. Non mi sento. Sì o no? Sì. E allora, no! Disse il Signore: le vostre mani grondano di sangue, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, sino la mia ira. verdade vos digo, ogni volta che non avete assistito a uno dei miei fratelli affamato, assettato, forestiero, nudo, malato o in carcere, voi non avete assistito me. Yeah. I poveri sempre più poveri. Il vostro Vangelo ha senso solo se un insegnamento per l'oggi. Una fede senza le opere ce l'hanno anche i demoni. Us demonios! Piano. Non mi aiuta! Non siete per colpa, siete per castoria, voi lo dico io. Ci stiamo beccando Dio per colpa vostra. Ma ultima orazione. Questa ultima prece che vos dico. L'ultima preghiera che mi dice. Ma santissimo di un papa, scega! Basta! Ma togli l'obbligo del celibato ai sacerdoti. La chiesa è la più grande fabbrica di pedofili. È ora di smetterla, basta! Perché l'amore è la cosa più bella che ho donato all'umanità. Minhas pequenas ovelhas, agora, deixe um beijo. Libris! Un bacio. Datevi un bacio, amatevi! Non un segno di pace, no, ha detto un bacio. Voglio vedere la pace di bacetti, voglio vedere 20 centimetri di lingua in bocca. Amate! Minimo! Ho detto cazzo, quando ci vuole attenzione, che la bestemmia è un attimo. No, Deus che ti senti, Deus per cortesia, cioè. E chi va al masì? È lui, casomai, che dovreste fare santo. E chi va al masì? Bambino 12 anni pastano. E chi va alla 5 anni venduto dai genitori, poi per 6 incatenato a lavorare a un telaio. E chi va alla 11 anni si ribella e si erge a difesa del bambino schiavo. Sono troppe. 12 ore al giorno per 55 lire. Una rupia. Chi va al prendi coscienza, si fa sindacalista, organizza la lotta, non scappa via. Non ho più paura del mio padrone, lui avere paura di me. E chi va al sostieni è in bicicletta. Un fucile spara. Tutto in chi va al si ferma. Cuore, polmone, vene. Perché? Perché non fate santo Iqbal, bambino eroe? piuttosto di acciuga secche del maldestro ciccione? Allora, adesso basta, eh? Impossibilorum, perché mai? Perché Pakistan è musulmano, è musulmano. Islam è stato un piacere, arrivederci. E allora, cosa significa che era musulmano? Non era forse figlio mio? Anche voi, pecorelle, non siete figli miei? Anche voi due, bauscia. Non siete forse figli miei? Tecnicamente sì. Ha parlato... Ma quali santi, ma quali santi? Ponti, ponti fra culture e religioni, no guerre, barriere. Questo è quello che io auspico dall'alto dei cieli. Bausch. Ma cos'è quella? Come Bausch? Si sta accendendo un cannone. Quello è un cannone. Però parla bene, parla bene, parla da Dio, parla. È Dio. A me non piaceva il Bausch, però questa cosa della pace. Niente guerre, niente barriere, ma ponti. Non possiamo che essere d'accordo. Beh, anche col tromboncino. Anzi, poi lo fai girare. Allora, sì, torniamo alla pace.